Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci siamo occupati già altre volte di Big Data in passato con riferimento alla Smart City, laddove per Big Data si fa più che altro riferimento alla massa di dati in possesso della pubblica amministrazione centrale e locale, sparpagliata in varie banche dati, e alla possibilità appunto di collegare, elaborare, di incrociare tutti questi dati a vario scopo. Per esempio per far emergere i casi in cui reddito dichiarato e stile di vita di una persona divergono in modo inspiegabile, un tema di cui si parla molto, oppure per esempio si possono immaginare di fare delle previsioni di traffico raccogliendo tutte le informazioni sul traffico, ma in realtà questa è una chiave di lettura limitata per un fenomeno che invece potrebbe segnare profondamente la nostra epoca. Allora stasera diamo il via a uno speciale di 3 puntate che dedichiamo al Big Data, di cui vi parliamo con l'aiuto indiretto, diciamo così, di Victor Meyer Schönberger, che è uno dei massimi esperti mondiali di questa materia, un consulente del World Economic Forum eccetera eccetera. In questi giorni Schönberger è stato in Italia per il Future Forum di Udine, dove lo ha incontrato Federico Pedrocchi, il quale invece è qui fisicamente con me e lo sarà anche per le prossime 2 serate. Buonasera Federico. Ciao Maurizio. Allora Federico, il punto è che ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma che è anche abbastanza difficile da spiegare. Sì, cambio di paradigma significa far diventare la quantità qualità. Facciamo un esempio che c'è nel suo libro Big Data di Schönberger. Allora, il problema è descrivere i cavalli. Abbiamo storicamente prima le statue, poi un po' di disegni. Quelli di Leonardo, no? Bellissimi. Poi a un certo momento arriva la fotografia e quindi abbiamo delle cose molto più realistiche. Poi improvvisamente cosa succede? Beh, che se mettiamo in fila qualche migliaio di piccole fotografie di cavalli, una attaccata all'altra, e li facciamo scorrere velocemente, ragazzi, è arrivato il cinema. Certo. Che è diverso. Cioè, tante fotografie non sono, sì, la stessa cosa, no, però di un se film, vedi, no? Lo strip è fatto di fotografie di cavalli. Ecco, c'è qualche esempio più concreto, proprio strettamente legato al tema dei big data di questo tipo? Allora, qui facciamo rispondere direttamente Schönberger, che cita un caso che è l'inizio, diciamo, della riflessione sui big data. Sentiamo. Oren Etzioni, who is a professor of computer science, and he wanted to attend the wedding of his brother. Allora, lui parla di questo Oren Etzioni, un professore, un docente, ricercatore nella computer science americano, che un giorno prende un aereo per andare al matrimonio del fratello e prende però l'aereo con un certo anticipo, il biglietto, circa 4 mesi, e spende $400. È in volo e fa un po' di chiacchiere con quelli che sono vicino e gli chiede: quanto ha speso lei? Quindi dice: 350. Ah, però, quando è che l'ha comprato? Una settimana fa. Accidenti. Allora chiede a un altro, dice: ma lei cosa ha speso? 70, ma quando l'ha comprato l'altro giorno? Lui dice: ma com'è sta storia? Mi ha sempre detto che prima li compri e meglio è. Allora cosa fa? Chiede alle compagnie aeree americane di dargli 6 mesi di tutti i biglietti che sono stati comprati. Li mette dentro un computer, fa un'analisi, quindi big data certamente, chi ha mai messo dentro tutti questi dati qui, e scopre che effettivamente, se hai tante informazioni, è molto più facile prendere il last minute. Cioè ci sono le offerte che sono, certo, poche sulla massa, e solo, certo, se tu riesci a guardare a tutta la massa e elaborare, esatto, tutta la massa di dati, riesci a tirar fuori l'offerta dell'ultimo minuto che costa meno che prenotare con un, sì, mese di anticipo. E riesci a farlo stabilmente. Diciamo, e riesci, okay, a farlo stabilmente. Addirittura ci puoi mettere in piedi magari un servizio. Esatto, e così, no? Infatti è stato. Ecco, un altro degli aspetti chiave, forse il più importante, legato al big data, è la possibilità di fare emergere, diciamo così, delle correlazioni del tutto inattese. Federico. Ecco, questo è il punto cruciale del paradigma. Lui fa un esempio, ecco, sentiamo. Prematurely born babies have a problem. They are susceptible to getting an infection. Cosa dice Schönberger? C'è un caso esaminato e messo in atto poi dall'Università del Toronto, da un team di questa università. Ci sono i bambini nati prematuramente, cioè non al termine dei 9 mesi consolidati, e hanno una grande disponibilità purtroppo a prendere delle infezioni, e quando arrivano queste infezioni bisogna agire nelle 24 ore immediatamente successive. Allora che cosa hanno fatto l'Università di Toronto? Hanno seguito centinaia, migliaia di bambini prematuri, hanno incrociato tutti i possibili dati, anche quelli che sembrava non c'entrassero nulla, e questo, esatto, è il fatto, esatto, importante. Questo, no? È il fatto, quindi proprio un grande bidone riempito di tutto ciò che sono i sintomi di questi bambini. A un certo momento, su queste migliaia, è chiaro che si sono manifestati dei casi di infezione, sono andati a vedere quali sintomi statisticamente portavano appunto al caso di infezione, e hanno tirato fuori un modello che a questo punto serve per prevedere rapidamente, entro 24 ore, che tipo di problema infettivo ha il bambino. Che cosa è cambiato sotto nel modo di elaborare i dati per arrivare a questi risultati? Ne parliamo domani, Federico. Ne parliamo domani. Buona serata, appuntamento domani.